triplosi attenti in TV, fumando blunt seduto con la gang. Il mio sangue è di colore blu, tanti mattoni fanno una parete. La tua merda è un déjà vu, ho déjà vu quando sto sulla catch. Sesso, droga e rock in TV, lei dice che ha paura del buio. Canale triplo 7 in TV, stiamo in TV, baby, fumando blunt seduto con la gang. Sto con la gang, gang. Il mio sangue è di colore blu, colore blu, ehi. Tanti mattoni fanno una parete, una parete, ehi. La tua merda è un déjà vu, è un déjà vu, ho déjà vu quando sto sulla catch. Sto sulla catch, ehi. Sesso, droga e rock in TV, siamo in TV, baby. Lei dice che ha paura del buio, paura del buio. Io sono Pyrax, chi sei tu? Chi cazzo sei, chi cazzo sei? Giuro che qui non t'ho mai visto, non t'ho mai visto, no, mai visto, no. Mi fido solo dei miei, la mia gang, la mia gang. Non mi parlare, cosa vuoi? Che cazzo vuoi, che cazzo vuoi? Fotti con me, guarda e impara, guarda e impara. Sto sulla tua spiaggia come uno squalo, come uno squalo, come uno squalo. Questa è vita vera, no Snapchat, no Snapchat. 200 euro per delle giardine, per delle giardine. Non ho un cuore come un Gundam, Gundam. Cazzo lungo come un mitra, come così caldo sembra l'inferno, l'inferno. Ho trasformato un pack in una Toyota, Toyota. Che non sono ricco puttana, se il tuo ragazzo mi odia perché mi copia, perché mi copia. I miei rapper non ne sanno un cazzo, voglio farmi in giro soltanto con la gang e basta. Fumando blunt seduto con la gang, sto con la gang, gang. Il mio sangue è di colore blu, colore blu, ehi. Tanti mattoni fanno una parete, una parete, ehi. La tua merda è un déjà vu, è un déjà vu, ho déjà vu quando sto sulla catch, sto sulla catch, ehi. Sesso, droga e rock in TV, siamo in TV, baby. Lei dice che ha paura del buio, paura del buio.